Investire informati. Allora, Investire informati domani diventa live, lo ricordo ancora una volta, da domani smetterò appunto di ossessionarvi con questo appuntamento, ma vi siete iscritti in tanti al nostro appuntamento appunto live alle 18 qui nella sede del Sole 24 Ore. Se volete partecipare c'è ancora spazio, dovete compilare un form appunto attraverso il sito di Radio 24 dove trovate tutte le informazioni. Non vi preoccupate, questa iscrizione ci serve solamente per farvi entrare con serenità, per ragioni di sicurezza abbiamo bisogno appunto di procedere attraverso queste formalità, poi non vi venderemo niente, quindi state tranquilli, sono solo informazioni che ci servono per un regolare transito nel palazzo appunto del Sole 24 Ore. Ci sarà, oltre ad oggi, anche domani, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Management, non management, perché mi hanno scritto che lo devo pronunciare correttamente. Dimmelo bene. Management. Management. No, management, con l'accento sulla prima A, scusate. Quindi visto, e allora, niente, vedi, no, mi viene naturale dirlo modo, nell'altra maniera. Eppure me la insegni sbagliato, vabbè, dai. Insomma, JP Morgan, smettiamola qua. Lorenzo Alfieri oggi ci orienta un po' in questi mercati che sono davvero suscettibili da qualche tempo a questa parte. Lo sono da molti anni, per la verità, e prendono spunto da ogni fatto ora politico per tornare ancora un po' di più sull'otto volante. Alfieri, partiamo un po' subito ancora sull'esame di questo effetto Trump e ce lo spiega qualche dettaglio in più rispetto a quello che questo nuovo presidente americano ha provocato sui mercati, perché per qualcuno si apre uno scenario geopolitico addirittura devastante. Il mercato invece non ha fatto altro dal giorno delle elezioni del 45esimo presidente americano che correre e correre. Che cosa sta festeggiando esattamente Wall Street? Ma chiaramente innanzitutto partiamo dal presupposto che l'elezione di Trump è stata sorprendente, ovviamente imprevedibile anche per i mercati finanziari. Trump ovviamente è una figura molto particolare, possiamo dire che comunque viene visto come un protagonista molto aggressivo sotto certi angoli e comunque determinato. Quindi ci si aspetta un interventismo nettamente superiore rispetto magari a figure presidenziali precedenti, nella fattispecie ci si aspetta che intervenga pesantemente sulla crescita americana attraverso investimenti infrastrutturali, sappiamo, attraverso magari taglio delle tasse, comunque alla fine potrebbe incidere sui consumi. E quindi conseguenzialmente anche sulle dinamiche inflattive americane che sono sempre state abbastanza moderate, quindi potrebbe costringere inevitabilmente a un rialzo da parte della Fed dei tassi per cercare di contenere il più possibile gli effetti inflattivi che ho appena accennato e conseguenzialmente quindi innescare ad esempio un rialzo del dollaro, temi di crescita anche ad esempio dei consumi interni, dinamiche quindi di crescita, perché no, anche dei bilanci aziendali. Le aziende americane potrebbero crescere perché ovviamente ci sono maggiori consumi, investimenti infrastrutturali e quant'altro. Per cui le borse americane hanno iniziato a innescare una crescita del dollaro virtuosa, abbiamo visto un rialzo dei tassi un po' meno virtuoso, ma anche Wall Street ha voluto festeggiare soprattutto su alcuni comparti, su alcuni settori che fino a poco tempo fa erano stati abbandonati, riscoprendo ovviamente orizzonti di crescita che erano insperati. Tutto ciò che può essere legato effettivamente al rilancio infrastrutturale è cresciuto molto a Wall Street, giustamente Lorenzo Alfieri ricordava proprio temi che erano stati anche trascurati dal punto di vista della cronaca finanziaria di recente. Un effetto importante, lo abbiamo visto e sottolineato più volte, è stato proprio questo forte slancio che ha il dollaro da qualche tempo a questa parte. L'euro cade, lo racconta anche oggi il Sole 24 Ore, sotto 1,07 rispetto al biglietto verde. Questa mattina siamo a 1,07,25. Un dollaro forte, che implicazioni ha, Alfieri? Ma anche un euro un po' più debole non è una buona notizia per noi? Allora, dollaro forte chiaramente sì, è una buona notizia ovviamente in generale possiamo pensare per l'economia americana fino a un certo punto, perché non dobbiamo dimenticarci che se il dollaro diventa troppo forte, le aziende americane inizieranno a avere seri problemi ovviamente per esportare. Dall'altra parte ovviamente ci siamo noi europei, che chiaramente in questo caso potremmo, alcune aziende, soprattutto fortemente esportatrici verso gli Stati Uniti, beneficiare ovviamente di un dollaro, di un euro debole. Non dimentichiamo però che un euro debole non fa altro che in alcuni casi allontanare gli investitori dall'area europea, quindi spingere gli investitori non europei, per così dire, a vendere titoli di Stato europei, vendere azioni europee, per rimpatriare, per così dire, i propri capitali, magari se sono americani. Quindi nel gioco appunto di forza tra dollaro e euro bisogna sempre trovare un equilibrio. Non ci dimentichiamo che per quanto riguarda le valute, tutto sommato gli ultimi 12-18 mesi con un cambio dollaro-euro abbastanza in un range abbastanza contenuto, vuol dire che fondamentalmente il cambio non è oscillato più di tanto, è stato un elemento favorevole che ha abbassato la volatilità e le preoccupazioni degli investitori. Se ovviamente andiamo verso una forte rivalutazione del dollaro, potrebbero innescarsi ovviamente altri temi di preoccupazione, tipo effetti sulle aree emergenti, naturalmente magari un ritorno di nuovo di preoccupazioni legate al petrolio. Adesso ne parleremo. Intanto ci sono degli ascoltatori che si sono già messi così in coda per intervenire in diretta, magari li sentiamo dopo le 11.30 all'800240024. Peraltro questo effetto Trump ha già un nome. Noi non vogliamo stressare i nostri ascoltatori continuando ad utilizzare terminologia in inglese che in genere appunto li indispettisce, però... Anche perché poi rischiamo anche di pronunciarle male. Male, come faccio io, però questo signora. È divertente, ma lo pronuncio oggi, poi non lo pronuncio più perché è difficile. Proviamoci. Trumpflation, cioè il movimento a rialzo dei rendimenti obbligazionari favorito dalle aspettative di inflazione appunto legate a tutti gli investimenti pubblici che Trump metterà in moto. Pensa quanto è difficile ragionare. Abbiamo avuto il quantitative easing, il tapering, ogni mese ne abbiamo una e adesso abbiamo il Trumpflation. Era più divertente il Trumpusto, come l'ha chiamata un'altra società la settimana scorsa. Allora parlavamo appunto di questo fenomeno più o meno bello, a seconda di come lo si guardi, appunto dell'aumento dei rendimenti sulle obbligazioni governative, no? Alfieri, è un tema molto interessante questo. In realtà vedere determinate scadenze dei titoli di Stato con rendimenti a zero non è che sia anche questa esattamente una buona notizia, quindi forse una situazione di normalizzazione è bene che Trump l'abbia prodotta. Il tema è con quanto movimento, con quanto fermento e quanta violenza è avvenuto questo movimento nel giro di pochissimi giorni. Su quale scadenza secondo lei si è generato il movimento più vistoso, non auspicabile? Ma diciamo che chiaramente probabilmente sulla scadenza tipica dei 10 anni, diciamo per quale motivo si è scaricata un po' la tensione su questa parte della curva, perché è un po' la parte della curva di riferimento. Se dovessimo come investitori a guardare a 30 anni, nessuno si fa in questo momento un'idea chiara. Già nel breve termine possiamo dire che ci sono delle incertezze, ma sulla parte a 10 anni chiaramente lì i rendimenti, non ci dimentichiamo, erano estremamente bassi. Se guardiamo ovviamente alla curva italiana, avevamo dei rendimenti storici bassissimi, di poco superiore, possiamo dire, all'1-1,5 a seconda del momento. Adesso siamo intorno nell'area del 2%, sì. È ragionevole che le flessioni appunto dei prezzi si siano orientate proprio su questa parte della curva, in attesa poi di capire realmente quali saranno gli scenari inflattivi reali, perché qua ovviamente vorrei sottolineare stiamo parlando di scenari possibili e plausibili. Ecco. Al momento vorrei ricordare a tutti che l'inflazione in Europa e negli Stati Uniti è assolutamente ai minimi storici, non ci sono tensioni, non ci sono quindi segni premonitori che l'inflazione stia aumentando. I mercati stanno scontando uno scenario che ancora non è di fatto realizzato, cioè che Trump inizi ad far correre l'economia americana e conseguenzialmente infatti, anche l'inflazione. Non ha ancora neanche la squadra di governo. Peraltro si diceva nei giorni scorsi che il loro grande capo americano, Jimmy Dimon, potesse assumere qualche impegno governativo. Ci porta qualche notizia di prima mano, Alfieri? Non l'ha chiamata stamattina per dirle se accetta di fare o meno il segretario al tesoro, ma pare che in realtà poi sia già caduto in disgrazia e stia già pensando Trump di scegliere qualcun altro. Comunque molto esposto ancora a Wall Street, perché anche quello poi è un grande tema, visto che la signora Clinton è stata accusata di essere largamente compromessa con l'ambiente finanziario. In realtà, quanto pare, per la carica di segretario appunto al tesoro, Trump potrebbe probabilmente pescare proprio dal mondo di Wall Street, e quindi anche lui, chi è senza peccato, come al solito, scagli la prima pietra. Sono le 11.31, devo raccontare la giornata di borsa, poi c'è Giovanna da Modena, c'è Piero da Roma, c'è il quizzone, oggi ne faccio uno veramente magnifico, molto profumato anche. Dipende dai punti di vista anche lì. Cuore e denari. My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for the apprentice. Eh sì, questo è il reality show che ha portato, oltre alle sue attività imprenditoriali, alla ribalta della cronaca televisiva Donald Trump, poi è stato replicato anche in Italia con Flavio Briatore. Insomma, perché vi abbiamo messo la sigla di Apprentice? Perché, allora, nell'analisi del miracolo Trump, ovvero come conquistare la Casa Bianca con meno della metà del budget dell'avversario, perché il signor Trump ha speso qualcosa come 307 milioni di dollari, mentre la ex First Lady Hillary Clinton ne ha spesi quasi 700, 687 esattamente. Allora, nell'analisi appunto vi dicevo del miracolo Trump, in cui per questa campagna elettorale entrambi appunto hanno speso cifre molto diverse, una delle carte determinanti che hanno portato alla vittoria di Donald Trump è stato il fattore linguistico. Come ha fatto Donald a trascinare l'America profonda a votare per lui? Solo per le sue guasconate o anche grazie al modo con cui le ha comunicate? Questione di linguaggio, ce lo racconta il nostro inviato nel mondo delle notizie speciali, Enrico Marro, della redazione online del Sole 24 Ore. Enrico, buongiorno. Senti che biglietto da visita che ti ho fatto stamattina. Bellissimo biglietto da visita, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, in effetti è vero, probabilmente da questo reality show che aveva condotto Trump ha imparato tanto, perché ha imparato in particolare a parlare in maniera estremamente semplice. E c'è questa ricerca, analisi redatta dal Language Technologies Institute della Carnegie Mellon University, che ha gettato un fascio di luce proprio sul linguaggio di The Donald dal punto di vista linguistico. E ha scoperto la ricerca che Trump ha una sintassi comprensibile a un bambino dell'ultimo anno delle elementari, che nel sistema anglosassone è la sesta elementare, quindi estremamente semplice. E come vocabolario, in sostanza, bastava essere tra la seconda e la terza media e i messaggi di The Donald risultavano essere estremamente chiari, mentre molto più complicata, molto più complessa, sia come vocabolario che come sintassi, era Hillary. Ma la cosa nel tuo pezzo hai scritto che era più sofisticata, per la verità, però vabbè. Eh sì, era più sofisticata, scusate. Ho fatto una puntualizzazione shock, era solo per sorridere, insomma, sofisticata e di conseguenza complessa, risultata quantomeno così all'elettorato, Enrico. Esatto. E la cosa anche interessante dello studio è che sono stati analizzati tutti i grandi presidenti americani del passato, da Lincoln a Reagan, dai due Bush padre e figlio a Clinton marito della fallita presidente, e il risultato dell'analisi è che Trump a livello di vocabolario è stato il più semplice di tutti, mentre a livello di sintassi ce n'è uno che è stato ancora più semplice di Trump. Vediamo se indovini chi è, Deborah. Vabbè, ho il tuo articolo sotto gli occhi, insomma, è uno che ha avuto anche un passato, ovviamente, in cui si è potuto cimentare con la comunicazione, perché è stato un attore. No, in realtà no, non era lui. Non era Reagan? Non era lui. T'ha fatto uno scherzetto. No. Mi hai fatto uno scherzetto, chi era? Ti ho fatto uno scherzetto, era Bush Junior, George Ah, Tapia, addirittura. Esatto, che secondo i ricercatori della Carnegie Mellon parlava in modo comprensibile a un bambino di quarta elementare. Invece Ronald Reagan, che spesso viene accostato a Trump, dal punto di vista linguistico era molto ricercato, molto sofisticato, addirittura a livello di vocabolario bisognava essere più o meno a livello dell'esame di maturità per riuscirlo a capire. Era un livello di complessità che nemmeno il grande Abramo Lincoln era riuscito a toccare. Enrico, grazie anche oggi per essere stato con noi. Mettiti alla ricerca di un'altra notizia curiosa per Investire Parlo Informati subito. Della prossima Vai, settimana. Parti. Grazie. Ci scrive un ascoltatore, insomma, della serie Parlo come mangio. Esatto. No, questo è un tema molto importante, perché se noi facciamo Investire Informati è anche per provare a rendere un po' più comprensibili i fatti finanziari complessi e metterli a disposizione dei nostri ascoltatori. Perché Lorenzo Alfieri, molto spesso accusiamo le persone di non avere un'adeguata educazione finanziaria, di tenersi lontane dalle questioni finanziarie, ma questo accade perché la finanza a volte non si rende comprensibile ai più. E quindi come dobbiamo gestire questo problema per chi ancora lo avverte sulla sua pelle? Dice: io di finanza non so nulla, per cui mi disinteresso del mio risparmio, delle possibilità di investimento che ci sono. Insomma, come vi ponete voi grandi colossi della finanza a questo argomento? Ma diciamo che uno dei problemi centrali e soprattutto è foriero poi di investimenti sbagliati, scorretti, perché non si era capito cosa si stava andando a comprare. Quindi i suggerimenti sono molto basi, semplici. Innanzitutto, per quanto sia possibile, cercare di informarsi il più possibile prima di fare un investimento, cercare per quanto possibile, adesso con internet è molto più semplice sicuramente del passato, informazioni sul tipo di prodotto, sull'area magari geografica che si sta andando a investire. Altro passo secondo me molto importante è quello invece di avere a fianco un professionista che faccia questo di mestiere. Evitare per cui perciò fare investimenti per sentito dire dall'amico che magari si occupa di ben altro, che ti dà dei suggerimenti. Quindi andare invece solo dai professionisti, ovviamente, che si avvalgono di strutture professionali. Tra l'altro, questo tema del fai da te io me lo ricordo molto forte quando all'inizio del 2000 c'è stata la bolla high tech, e quello è stato veramente il momento più fragoroso del passaparola, perché tutti correvano a comprare i titoli della tecnologia. Forse adesso lo abbiamo un po' meno, ma magari qualcuno ancora un po' la tentazione di guardare l'erba del vicino che sembra sempre più verde c'è, però forse un po' meno del passato, meglio naturalmente. Però sì, direi che effettivamente l'esempio è molto calzante, perché anche in questo momento ci sarebbero dei rischi di bolla. Per esempio penso alle cosiddette aziende digitali che vengono sempre legate a internet, che vengono quotate, ma stiamo assistendo a dei fenomeni che tutto sommato sono abbastanza limitati, mentre al tempo della bolla tecnologica ci ricordiamo che fu ovviamente abbastanza paradossale vedere aziende che avevano solo magari .com nel nome, ma magari si occupavano di abbigliamento, che triplicavano, quadruplicavano in pochi mesi il loro valore. Quindi la situazione è leggermente migliorata, ma sono d'accordo nel dire che assolutamente l'informazione finanziaria è al primo posto come elemento fondante per poter prendere ovviamente delle decisioni di investimento sagge e ovviamente consapevoli, che è la cosa più importante. E coerenti con le proprie necessità. Allora, tra l'altro, a proposito di bolle, di cui la storia è piena, a partire da quella dei papaveri appunto dell'Olanda, in realtà ce n'è stata un'altra recente che ha portato ad una vera e propria esplosione dei prezzi delle materie prime in Cina. Bolla che sta scoppiando, e anche qui non vorrei che si nascondesse un altro focolaio di crisi che ci arriva prima o poi appunto sulla testa, sulla schiena, in maniera molto pesante. Adesso ne parleremo, devo ancora anche sentire gli ascoltatori che sono lì in attesa da un po', ma io vorrei fare, prima di andare in pausa, rapidamente già il domandone, così li faccio studiare i nostri ascoltatori. Eccoci qua. Allora, adesso vi racconto un po' che cosa sta succedendo appunto in Cina su alcune materie prime, e qua ci sono delle vendite massicce che stanno riguardando acciaio, carbone da coke, che sono proprio le materie prime, come scrive Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, predilette dagli speculatori che ne avevano spinto appunto le quotazioni a record pluriennali. C'è un'altra materia prima che è stata oggetto di fortissime oscillazioni sui prezzi, è agricola, è molto utilizzata in cucina e la Cina è responsabile dell'80% dell'export mondiale di questo prodotto. Andate un po' a cercare che cos'è e noi siamo pronte qua non solo a darvi delle ricette con Nicoletta, ma anche a regalarvi i libri di Cuore e Denari. Cuore e Denari. Quale materia prima è oggetto di fortissime oscillazioni sui prezzi in Cina? È una materia prima agricola molto utilizzata in cucina. La Cina è responsabile dell'80% dell'export mondiale. Questo è il quizzone di oggi per arrivare a parlare della bolla delle materie prime in Cina, se ce la facciamo. Prima però spazio alle domande per Lorenzo Alfieri da parte di Giovanna da Modena e Piero da Roma. Giovanna, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Io a proposito di informazione sono una che vi segue, ma non ne so niente, non ho internet, quindi vi faccio una domanda. Sì. Ho pochi soldini da parte che vorrei tenere stretti, esatto, e proteggere. No, sì, però vorrei anche venderli e reinvestirli in un altro modo, senza fretta. Ma un attimo, Giovanna, ha soldi da parte che vuole vendere, non ho capito, investiti in sì, che cosa? No, sono dei BTP. Ah, ecco. Volevo dei BTP, ho dei BTP. Titoli di Stato, sì. Sì, che vorrei vendere per poi rifare un portafoglio diverso. Allora, Giovanna, sì. Se questo è il momento più adatto, se devo seguire l'andamento dello spread quando si alza, una domanda proprio semplice. Allora Giovanna, qua ci dà modo per spiegare questa dinamica che ai tanti, ai più Alfieri è generalmente incomprensibile, no? Perché non si capisce mai per quale motivo quando il prezzo del titolo di Stato scende il rendimento si alza, perché si divarica appunto questa relazione. Detto questo, è chiaro che non possiamo dare una risposta precisissima a Giovanna, perché dipende da quanto ci li ha in carico, in che momento appunto li ha comprati. Fondamentalmente sottoscritti, prima regola. Assolutamente. Siccome comunque la ascoltatrice mi sembra che abbia deciso di vendere i suoi BTP, parto dal presupposto che ha fatto questa scelta, quindi non entro nel merito del passato. Il futuro però mi permetto di dire che secondo me, se uno vuole entrare, avendo un profilo abbastanza conservativo, in questo momento forse la cosa più opportuna è cercare di acquistare un fondo diversificato nell'area dei cosiddetti obbligazionari flessibili, dove cioè il gestore ha la possibilità di muoversi tra tante tipologie di titoli, ma anche tra tante scadenze diverse, e potendo eventualmente aumentare o ridurre le quantità e la qualità dei titoli in ogni momento. Questo perché? Perché ci stiamo avviando verso un periodo molto volatile. Infatti è già tanto che Giovanna non ha chiesto lo faccio adesso dopo il referendum, perché mi aspettavo anche questa coda di domanda. Con questa volatilità prevista nelle prossime settimane, ma anche nei mesi a venire, sicuramente uno strumento come un obbligazionario flessibile è un modo per essere in una cosiddetta asset class a basso, diciamo meno rischiosa, se così vogliamo dire, però dall'altra parte cautelarsi, perché ovviamente con la volatilità troppo alta, se si comprano magari fondi non flessibili, si rischia ovviamente di avere forti perdite. Io comunque sono dell'idea che dopo il referendum, a prescindere dal risultato, ancora una volta succederà poco nulla. Abbiamo già digerito un po' tutti gli effetti possibili. Voi siete preoccupati, Alfieri? Per quanto riguarda il referendum italiano, sicuramente noi guardiamo ovviamente alle conseguenze sugli altre aree, per esempio l'Europa. Chiaramente un certo tipo di risultato potrebbe innescare delle aspettative populiste anche sulle imminenti elezioni in Olanda, in Francia e in Germania. Per cui aumentare, per così dire, il rischio di volatilità nel breve termine proprio sui mercati finanziari europei. Allora, a proposito di temi italiani, Piero da Roma ha la sua domanda. Piero, benvenuto, velocissimo se ce la fa, grazie. Sì, se ce ce la faccio, però dovrete cortesemente permettermi una rapidissima premessa. Chi è di voi due che diceva sempre management? Io lei, mi sbaglio, la metto. Allora, guardi, da oggi in poi, ricordi questo, lei che cosa dice, manager o manager? Ha ragione, Piero, mi ha dato lei, la regolina per poi, inchiodarmelo ricorda, in testa. Dice manager, deve dire management, perché l'accento è anche sua. Grazie, Piero, guardi che anche noi andiamo a scuola tutti i giorni. Vada con la domanda che devo chiudere fra due minuti. Sì, dunque, i miei cosi della cucina, io so... Che cosa fa la Cina per accaparrarsi beni? I beni, sapevo, i beni non ferrosi, il rame, il zinco, sì, eccetera. Le posso invece dire che cosa sta facendo per ottenere questi beni, perché contrariamente a tutti gli altri paesi, la Cina non compra i beni dai vari paesi, ma va nei vari paesi e si compra immensi attrezzamenti di terreno. Piero, io pensavo avesse un'altra domanda sul mercato italiano, mi sbaglio? Sul mercato italiano posso semplicemente dire che le prospettive delle obbligazioni saranno molto più positive con Trump di quanto non sarebbero state con la Clinton. Quindi... E allora, guardi, noi prendiamo adesso anche questa sua previsione, visto che qua peraltro nessuno prende più niente da Brexit a Trump, è proprio la stagione delle previsioni cannate, direi sentiamo, vedremo appunto in futuro se Piero avrà ragione. Allora, tema bolle di cui dobbiamo temere qualche cosa, Alfieri, stanno scendendo moltissimo i prezzi di molte materie prime cinesi. Adesso io non è che voglio spostarmi così con questo volo pindarico dall'Italia alla Cina per divertimento, ma perché poi ogni tanto arriva qualche sberla da quest'area del tutto in attesa e ne paghiamo tutti quanti le conseguenze. Dobbiamo tenere sotto controllo questo movimento? Direi che in generale chiaramente c'è molta volatilità, e quindi fino a poco tempo fa, ad esempio, c'era molta preoccupazione sulle commodities perché potevano scendere. Non ci dimentichiamo che con l'elezione di Trump è avvenuto esattamente l'opposto, cioè Trump, innescando grossi investimenti, certo, infrastrutturali, il RAM ha preso il volo, ha iniziato per esempio a innescare grosse recuperi su alcune materie prime. Concludo dicendo, il mercato delle materie prime è un mercato estremamente professionale, molto difficile da prevedere, altamente volatile, evitare quindi di fare propri investimenti sulle materie prime, perché il rischio ovviamente di grosse perdite è dietro l'angolo. Lasciamo le professionisti. Ci si brucia. Esatto, infatti, anche se lo si cucina male, chissà. Allora, Gino da Gorizia, qual è la materia prima oggetto di forte oscillazione sui prezzi, molto utilizzata in cucina? La Cina ne esporta per l'80% a livello mondiale. Ma vado, naturalmente, buongiorno a tutti. Vado dietro quello che ho sentito, dietro una vostra... Veloce, qual è? È il pomodoro. Non salsa. È il pomodoro, Gino, ma le regaliamo qualcosa lo stesso. Salvatore da Milano, qual è? L'aglio, secondo me. Bravo, l'aglio. L'aglio, che ha delle ottime proprietà. Sì, abbassa la pressione, antibatterico, ci si prepara anche la bagna cauda. Esatto, e l'aglio e anche l'alito naturalmente vuole la sua parte in tutto questo. Potete aiutarvi, prezzemolo, mela, chicchi di caffè. Grazie, grazie. Allora, ci vediamo domani ad Investire in Formati Live anche con Lorenzo Alfieri e noi domattina torniamo con Aldo, Giovanni e Giacomo qui a Cuore Denari, quindi puntatona, Nicoletta. Ce ne vedremo delle